Allora, esami, benvenuti alla tappa numero 13 di Extra Extra, ed è una tappa particolare perché potrebbe essere non l'ultima, ma si avvicinano alla fine del Tour de France per quanto riguarda i velocisti, e ci si avvicina chiaramente ai Pirenei, alle giornate, insomma, che vedranno protagonisti. È inutile girarci intorno, quei due più uno, quei forse tre lì, uomini di alta classifica, magari non solo loro, ma è difficile uscire dal dualismo e pensare che vedremo qualcun altro nei prossimi giorni lì davanti. Fatto sta che noi torniamo a oggi e torniamo ai piedi dei Pirenei, quindi parliamo di energie. Oggi è una tappa che ha nell'energia la sua chiave di lettura. E ha particolarmente senso perché andiamo verso i Pirenei, appunto ai piedi dei Pirenei, a Pau, da dove sono partite o arrivate quasi tutte le grandi avventure pirenaiche del Tour de France, e stiamo parlando di una catena montuosa antica, imponente a modo suo, meno imponente forse delle Alpi, ma assolutamente forte. Ecco, è una catena montuosa forte, qualcosa che ti sbatte incontro, che ti mostra plasticamente l'energia della terra, e quindi ha un senso anche parlare di energie, anche perché le energie cominciano ad essere al lumicino per i corridori, Oggi è una tappa che doveva essere di ricarica, eppure in gruppo hanno deciso di tirare come degli ossessi. Di energie ne sono rimaste molto poche a tutti, e vedremo domani quanto peserà nelle gambe dei corridori una giornata difficilmente spiegabile come comportamento, se non che forse c'è la voglia di setacciare ulteriormente quello che rimane. Fatto sta che una prima prova del setacciamento è stata la volata di oggi, lo si capisce dal numero esiguo di partecipanti a questa volata, ma lo si capisce anche e soprattutto dal suo svolgimento. Prima di arrivare alla volata vera e propria, ci tengo a menzionare anche oggi quel momento abituale di questo Tour de France, ovvero la tirata folle di Abrahamsen, spesso in fuga, ma abbiamo visto che anche in tutti gli arrivi in volata vuole farsi notare. Ha la maglia Poix che si riconosce facilmente. Oggi è stata talmente secca la sua tirata ai più o meno 3,3 dal traguardo che ha fatto pure il buco. E puntualmente anche oggi si è fatto un chilometro davanti a tutti, poi si è fatto sfilare. Dietro tendenzialmente lavorava la Intermarché, che era la squadra un po' più decisa, un po' più compatta, ma il gruppo si è abbastanza ridisposto. Andiamo alla volata vera e propria. C'era un'ultima curva importante, poi ci sarà un'ultima vera e propria curva, ma la più, così, una curva quasi a gomito. Era ai 1100 dall'arrivo, subito prima di entrare in questa curva, in transenna sono risaliti Christophe Laporte con Wout van Aert a ruota. Il trenino della Visma, composto da due vagoni, una locomotiva Laporte e un finalizzatore come van Aert. In questa curva loro risalgono bene prima di entrare in curva, all'esterno tra l'altro, giustamente, mentre all'interno rischia un po' di farsi chiudere Binyang Girmay. Riesce a non farsi chiudere, ma gli Intermarché in quel momento si sciolgono un po'. Uno si alza prima della curva, gli altri due si perdono perché in mezzo si infilano gli Arkea. Fatto sta che Girmay, che era terzo all'ingresso della curva, esce sesto. Ha quattro uomini in mezzo tra lui e il suo ultimo e unico compagno, e da qui praticamente non risalirà più, se non proprio negli ultimissimi metri. La caduta ai meno 700 l'avete vista e rivista tutti quanti. Evan Gils che la innesca insieme a Capio dell'Arkea. È difficile andare a giudicarla. Io adesso, mentre sto registrando, non ho visto se sono usciti dei comunicati della giuria, ma mi importa poco, perché c'è chiaramente un errore grave da parte di Evan Gils, perché fa da là a un capitombolo che poteva anche fare molto male. Capio è caduto malissimo, battendo la testa, credo anche. Capio si stava rialzando, Van Gils lo stava passando in transenna, lo spazio c'era, gli dà una piccola spallata, o piccola o grande, vedete, valutate voi, gli dà una spallata, ma questa spallata, a mio parere, è una scelta di paura. Nel senso che Van Gils si trova troppo vicino alla transenna, troppo per la sua abitudine, lui che non fa le volate di mestiere, stava troppo vicino alla transenna, scarta per paura e va a toccare con decisione Capio, che invece era rilassato, tra virgolette, aveva finito il suo ruolo, quindi si stava rialzando, era meno deciso sulla bicicletta, quindi anche più facile allo sbilanciamento. L'errore di Van Gils è grave. Capio, che ha preso una gran botta e spero che non si sia fatto male, fa un altro piccolo errore anche lui, perché si gira, quando si rialza si gira alle spalle per vedere se De Mar fosse nel posto giusto al momento giusto, e così facendo si sbilancia un po'. Insomma, brutta manovra di Van Gils, spero che le conseguenze non siano gravi, ma andiamo al momento chiave della volata. Ai meno 600, subito dopo la caduta, c'è un'ultima curva, Laporte è già in testa e Van Aert è secondo. Girmay ha praticamente ripreso la ruota del suo compagno, dietro di lui c'è Philipsen che di fatto è stato a ruota di Girmay negli ultimi 1500 metri. Solo poco prima della caduta l'aveva affiancato e peraltro affiancandolo per scegliere quasi la ruota di De Mar, forse si era accorto che Girmay non ne avesse troppe, ha rischiato grosso, se andate a rivedere la caduta, ha rischiato il botto Philipsen perché Capiot viene proiettato verso centrostrada e Philipsen deve fare un bello scarto per superarlo. Il momento decisivo arriva tra i meno 500 e i meno 300, l'ultimo uomo dell'Intermarché si rialza, in testa c'è Laporte che però è davvero esausto, di energie non ne ha più, si vede chiaramente rallentare la testa del gruppo. Laporte si guarda alle spalle, sa che il traguardo è lontano ma non sa davvero più che fare perché alla Visma manca un uomo, a quel punto lui dovrebbe rialzarsi e far fare una volata a Van Aert che insomma ci vorrebbero gambe che in pochi hanno. E quindi non lo so, forse mi viene da dire che la scelta di fare la volata davanti da parte della Visma non si spiega molto, si spiega per evitare i rischi forse, ma dal punto di vista tattico non si spiega granché. Dal punto di vista tattico invece è perfetta la scelta di Jasper Philipsen, che fa una volata lunghissima, parte ai meno 300, è molto presto, ma lui di gambe e di energie ne ha da vendere, e lo abbiamo visto, ma soprattutto ragiona in quel momento, quando vede che la porta non ne ha più, quando vede che la velocità scende, sa benissimo che un corridore come Wout van Aert, che era l'avversario in quel momento, perché Girmay ormai era un po' più indietro, è un corridore che patisce le volate che partono più lente, le volate che partono in rallentamento, perché non ha lo sprint di Philipsen semplicemente, e quindi Philipsen decide di lanciarlo lì il suo sprint. Sa che è lunga, ma sa che può anticiparlo, perché a questo punto anche Van Aert si trova al vento, e infatti il resto, i 300 metri che mancano, sono una questione di gambe o appunto una questione di energia. Due parole su due avversari, di Girmay l'abbiamo detto, va riconosciuto che a un certo punto resta un po' chiuso, essendo rimasto indietro si trova un po' chiuso nel traffico degli altri, permettetemi il termine, comprimari di questa volata, tanto che rifila anche una bella spallata a Varenskjold per farsi largo, Varenskjold sbanda vistosamente, anche qui non so se la giuria ha avuto qualcosa da ridire, soprattutto Girmay si trova tappato da Clément Rousseau che è lì in mezzo, ma va evidentemente alla metà degli altri, mentre, permettetemi, qualcuno l'ha fatto notare anche sul gruppo Telegram, di fare un applauso a Ackermann, che si piazza terzo oggi, andando molto bene, è il suo terzo posto consecutivo nelle volate del Tour, in più a un quarto e un sesto, pochi se lo aspettavano, io di certo no, e invece sta facendo un Tour de France tra i migliori velocisti del gruppo. Philipsen può arrivare comodo, si gira addirittura a guardare da vicinissimo il colpo di reni di Van Aert, chiaramente non ha bisogno di darlo perché lui oggi ne aveva più di tutti quanti, domani sarà tutt'altra storia e vedremo chi appunto pagherà una giornata corsa a questa velocità. Domani, come si dice in Francia, sono cazzi. Nel dubbio domani faccio pure io un piccolo ricarico energetico, purtroppo al contrario, nel senso che non me ne vado in vacanza ma avrò da fare troppo per fare uno spazio extra, quindi non ci sarà extra, non andrà in onda domani, non lo so dopodomani, si vedrà, chissà, au revoir.